come faccio io ad amarti se mi guardi così? Mi deludi, mi torturi, non è mai lunedì. Non fai mai uscire l'uomo che è dentro di me. Pomeriggi chiusi in casa fra partite TV, non c'è mai divertimento se ti diverti tu. Il tuo lifestyle non è il mio, credo che fuggirò da te. Un lento lifestyle, un po' troppo lento per me. Una vita noi abbiamo, una vita noi giochiamo. Me la stai facendo buttare via. Guardami negli occhi, non ti viene in mente scena conturbante. Guardami negli occhi, il paradiso è di là e l'inferno per di qua, per di qua, per di qua. Perdi qua. Rinomato Latin lover famosissimo, un passaparola davvero poco riuscito. Dove sei? Cosa fai? La terra ti sta chiamando. No, no. Lifestyle, un po' troppo lento per me. Una vita noi abbiamo, una vita noi giochiamo. Me la stai facendo buttare via. Guardami negli occhi, non ti viene in mente scena conturbante. Guardami negli occhi, il paradiso è di là e l'inferno per di qua, per di qua, per di qua, per di qua. Ti smuovi, non reagisci, cosa fare di te? Sei un manichino inerte da esporre in vetrina. Dove sei? Cosa fai? La terra ti sta chiamando. Guardami negli occhi, non ti viene in mente scena conturbante. Il paradiso è di là e l'inferno per di qua, per di qua, per di qua, per di qua, per di qua, per di qua, per di qua, per di qua.